Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, ci siamo, è giovedì ed è tempo di Mangia con me. In linea abbiamo già il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno, dottor Ongaro, è pronto per un nuovo caso? Ah, certo Nicoletta, prontissimo, anche perché ormai abbiamo anche in questa serie accumulato un'esperienza importante. Paola, Giulio, Giuseppe, Loredana, Marco, Laura, Fabio sono tutte persone di età diverse con problematiche differenti, ma accomunate da un progetto comune, uguale, quello di fare del cibo un alleato per una vita più sana, più bella, possibilmente più lunga, e la nostra filosofia è che non servono delle diete o delle soluzioni drastiche, ma che si può raggiungere l'obiettivo di un'alimentazione corretta con piacere, divertimento, e in questo senso speriamo proprio si stia divertendo anche Paola, il nostro primo caso, per cui avevamo scelto proprio la parola chiave buon umore. Paola, benvenuta, ciao! Buongiorno a tutti! 8 settimane di Mangia con me, tiriamo un po' le somme, il buon umore com'è ad esempio? Allora, io sono contentissima di questa avventura anche perché ho imparato a mangiare bene, a parte inizialmente delle difficoltà relative appunto a trovare quei prodotti particolari che non si trovano in tutti i supermercati. Ho imparato adesso a leggere le etichette, a essere più attenta all'alimentazione e no, sono contentissima. Ho perso 3,5 kg. Che non è tantissimo, però ho messo su tanta massa muscolare, anche grazie agli allenamenti del professor Tirelli, quindi sono molto contenta. Quindi una donna nuova, una ragazza sì. Nuova, Paola è giovanissima, dottor Ongaro, è soddisfatto? Io sono soddisfatto anche perché Paola ha detto una cosa importante che dobbiamo sempre ricordare, il peso non è l'unico parametro da osservare, guardatevi allo specchio, alle volte il corpo cambia, anche senza un grande cambiamento di peso, proprio per il motivo che diceva Paola, cioè stiamo perdendo muscoli ma accumulando massa muscolare, stiamo perdendo grasso, scusate, ma accumulando massa muscolare, e quindi il peso varia relativamente poco, ma l'antropometria, cioè la costituzione del corpo, migliora tantissimo. Oppure ci sono quelli che fanno, scusi, una fetta d'ananas, sa, l'ananas brucia i grassi, ci vorrebbe lanciafiamme, poi ti prendi in giro da solo, cioè vai sulla bilancia e la guardi, allora gli dai il calcetto, sapete quelle bilance che col calcetto c'è la lancetta che va poco prima dello zero, gli freghi mezzo chilo, ci sono, guarda, delle cose incredibili che uno poi a questa età arriva a fare, dice mangia carne bianca, se mangi carne bianca dimagrisci, e pollo, e tacchino, e pollo, e tacchino, e tacchino, e pollo, e pollo, tacchino, tacchino, pollo, vai in bagno, fai l'uovo. Quando io inizio una dieta e la sto facendo da 20 giorni, voi mi vedete, mi guardate e mi dite, Fiore, sei un po' ingrassato, sono coltellate. Oh, quando dimagrisci, che finalmente uno poco dimagrisce, ti guardano e ti dicono stai meglio prima, sai, sembri malato. Paola, uno straordinario fiorello, come sempre, che da cui prendiamo spunto per chiederti cosa ti dicono i tuoi amici, ti danno coltellate o sono soddisfatti? No, sono contenti, mi vedono felice, mi vedono soddisfatta, sono stata anche molto determinata comunque quando andavo a pranzo con loro, a cena, comunque dovevo scegliere sempre alimenti semplici, andavo sul semplice, nel senso che prendevo la fetta di carne, però sono contenti perché mi vedono entusiasta di questa avventura. Grazie Paola per essere stata con noi, naturalmente noi ci teniamo in contatto perché sono passate 8 settimane, ma Paola diventa una nostra testimonial, forza Paola, grazie. Grazie mille. Dottor Ongaro, ma nuove sfide ci attendono, infatti anche oggi ci misuriamo con un nuovo caso, signore e signori, ecco a voi. Ciao, sono Viviana, sono una ragazza un po' stagionata di 47 anni, sono mamma di Matteo di 8 anni e sono sposata con Dario. Sono dirigente di un'azienda di microelettronica e mi occupo di computer vision. Se fossi su una torre, terrei sulla torre pane, la frutta, la verdura e la carne, butterei giù la pasta, il riso, i formaggi, ecco, sì, va bene, dai, faccio così. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach firm. Allora, beh, ma adesso mi stai registrando già, no, aspetta, che devo fare le prove. Allora, l'attività fisica, dunque, non mi piace assolutamente correre, per cui diciamo che alla fine ho deciso di lanciarmi in piscina, notoriamente anche gli ippopotami vanno in acqua, quindi per me va bene, faccio acqua gym 2 volte alla settimana. Io sono una vittima delle diete yo-yo, ho iniziato la mia prima dieta a 16 anni, dopodiché è stato il delirio perché ne continuavo a fare una poi l'altra e prendevo sempre più chili. Adesso io la teoria la so abbastanza bene, allora diciamo che cerco di mangiare abbastanza bilanciato, però sicuramente c'è qualcosa che sbaglio. Inoltre sto avvicinandomi all'età della menopausa, inizio ad avere già qualche sintomo di premenopausa e non vorrei che questo problema di chili di troppo si accentuasse, quindi vorrei trovare qualche cosa, un regime bilanciato che mi aiuti. Quindi sono qui pronta a mangiare con voi. E noi siamo pronti a lavorare con te, benvenuta Viviana. Buongiorno a tutti. Viviana, tu ti sei definita vittima dell'effetto yo-yo perché hai fatto tante diete ma hai constatato che i chili persi con tanti sacrifici li hai recuperati in breve tempo e in alcuni casi, succede spesso, con gli interessi. Sì, effettivamente è successo proprio così, come dicevo, ho iniziato abbastanza giovane, ma avevo un buon peso fuori perché pesavo 50 kg e tuttavia prima ne perdevo 4, poi ne riprendevo 6, poi aspettavo un po', poi facevo un'altra dieta, ne perdevo altri 3, ne riprendevo 4 e così via. Quindi è un po' secondo me anche una questione di ansia, quando inizio a fare la dieta mi viene quasi più voglia di sgarrare di quanto sono dieta. Allora senti, proviamo a cambiare proprio l'idea di dieta, resettiamo tutto, cominciamo da capo, diamo il classico colpo di spugna, dottor Ongaro, questa puntata vogliamo proprio dedicarla a chi ha fatto tanto e ha visto poco e dieta dopo dieta si trova a fare i conti con un sovrappeso che sembra insensibile a qualunque sacrificio e restrizione. Dottor Ongaro. Sì, è un caso molto comune, insomma è una delle ragioni, Nicoletta, per cui abbiamo sempre puntato non tanto al discorso di dieta quanto al discorso di un nuovo approccio all'alimentazione da tenere per tutta la vita, perché insomma questo effetto yo-yo colpisce moltissime persone, sono moltissimi quelli che fanno delle diete e pochissimi quelli che effettivamente controllano il loro peso nel tempo. Sì, infatti Paola mi scrive al 349-238-6666, se gli effetti sono questi è meglio mangiare liberamente e tenersi i chili, almeno non aumentano dopo la dieta. Per certi versi ha ragione la nostra ascoltatrice. Ma sì, dipende dalla situazione di ognuno di noi. Io credo che l'esigenza di mettersi a dieta, Nicoletta, venga perché le persone percepiscono che c'è qualcosa che non va, mm-hmm. o si guardano e non si piacciono, e quindi altrimenti uno non ci pensa proprio. E questa esigenza va però interpretata e sfruttata nella maniera più giusta, e la dieta drastica a tempo evidentemente non è la maniera giusta di interpretare questa esigenza. Viviana, quindi tu sei pronta a cambiare proprio un po' mentalità. Vedrai che il dottor Ongaro insieme a Stefano Polato e al professor Tirelli non ti faranno venire la voglia di sgarrare. Benissimo. Che dici? Sì, benissimo, penso proprio che io sto cercando proprio qualcosa, un regime molto bilanciato che non mi faccia sentire a dieta, cioè che sia poi il mio stile di vita, così almeno sono tranquilla. Guarda Viviana, tra l'altro voglio dirlo ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, le ricette che trovate sulla pagina di Mangia con me possono rappresentare un esempio di corretta alimentazione. Spesso noi non sappiamo che cosa fare a cena, facciamo un po' la spesa così a casaccio, buttiamo spesso tante cose. Allora fatevi, anche se non avete da perdere peso, ma fatevi così ispirare dai menu che Stefano Polato prepara sotto naturalmente controllo del dottor Ongaro, perché sono ricette assolutamente bilanciate. Provate così a farvi stuzzicare dalla voglia di mangiare meglio e poi no, l'appetito viene mangiando, ma viene mangiando anche cose buone. E arriva anche una nuova idea di dieta e soprattutto buoni risultati sulla salute, dottor Ongaro. Sì, assolutamente. Diciamo che deve essere buono, cioè l'alimento deve comunque rimanere, il mangiare deve comunque rimanere un piacere, solo che è un piacere che va modulato e gestito in una maniera differente, e credo che con l'aiuto di cuochi preparati ma innovativi come è Stefano Polato, si possa davvero arrivare a questo obiettivo, cioè non rinunciare ai piaceri, ma far sì che il cibo sia appunto un alleato nel mantenimento della salute, del peso forma, della longevità, eccetera. La domanda di oggi è quindi: quante diete avete fatto negli ultimi 2 anni, dottor Ongaro? Diamo un tempo. Quante diete avete fatto? E secondo me una domanda connessa direttamente a questa è se siete delle persone yo-yo, cioè quanto avete subito l'effetto delle diete che vi hanno fatto perdere peso, ma poi a distanza di qualche mese vi siete ritrovati con il peso di prima o magari con dei chili di più addirittura. E Viviana, per esempio, mi interessa capire quanto pesi adesso. 87. Ecco, Viviana è un esempio. Viviana, di non dirlo così. Dio, 87. Sì, con serenità, ma però è un esempio di una persona che tutto sommato, avendo guardato la sua scheda alimentare, all'apparenza non fa degli errori così eclatanti, eppure ci sono dei chili assolutamente da perdere. Si è instaurato evidentemente un processo che favorisce l'accumulo e non favorisce il consumo, che è un fenomeno molto comune. Si è inceppato in qualche modo il metabolismo di Viviana. Eccola qui la parola fatidica: metabolismo, a cui aggiungo un aggettivo: lento, addormentato, svenuto. Com'è il vostro metabolismo? Potete naturalmente chiamarci all'800 24 00 24 per dirci se fate spesso delle diete, se siete vittime come la nostra amica Viviana dell'effetto yo-yo e se pensate che il vostro metabolismo si sia addormentato. 800 24 00 24, naturalmente potete seguirci anche su Twitter e su Facebook, ma dottor Ongaro, ci sono alcuni trucchi che vengono suggeriti anche in rete per svegliare questo metabolismo. Vediamo se sono quelli giusti. Ad esempio, ho letto fare un'abbondante colazione, vero o falso? Beh, fare un'abbondante colazione, l'abbiamo sempre detto anche noi, è il momento giusto per dare al corpo gli alimenti e quindi sì. Digiunare. No, digiunare direi assolutamente di no, insomma, cioè il digiuno tutto sommato non è la soluzione adatta, almeno che non si tratti semplicemente di alleggerire la cena e favorire, diciamo, il digiuno notturno, questo può essere utile, ma il digiuno protratto assolutamente no. Mangiare 5-6 piccoli pasti durante la giornata in modo da farlo lavorare di più, è vero oppure bisognerebbe tenere i 2 pasti principali più la colazione, questo mini pasto che risveglia il metabolismo? Ma diciamo che a parte il fatto che, insomma, quando uno dice 5-6 piccoli pasti, poi è chiaro che sono 2 principali e poi magari 2 snack, però in generale questo può essere un trucco utile, perché non tanto perché accelera il metabolismo, quanto perché ti fa controllare molto meglio la fame, arriverai ai pasti principali meno affamato e tenderai a non mangiare troppo. Senta, invece cenare prima la sera, anticipare la cena? Beh, cenare prima la sera è quello che accennavo prima, sì, in realtà anticipare la cena è utile, perché il digiuno notturno è un momento importante per il metabolismo e soprattutto mangiare tardi la sera significa poi avere una chance molto elevata di accumulare ovviamente quelle calorie, perché di notte non le consumeremo. Certo. Viviana, volevo sapere di queste cose quale fai o quale non fai. Abbondante colazione la fai? Non proprio abbondante, non sono da caffè, basta, però poco. Però diciamo che non posso mangiarmi 4, non so, 2 toast, lo yogurt, la spremu, ecco, per me è un po' dura. Diciamo un po' dura. Così. I piccoli pasti, fai gli spuntini? No. Digiunare ogni tanto a mezzogiorno, ma ogni tanto perché magari devo fare qualche riunione, mi dimentico di portarmi qualcosa da casa. E cenare prima, dipende quanto prima, io tipicamente mangio verso le 7:30 di sera. Io mangio alle 9:15, figurati. Quindi devo dire che l'unica cosa buona fino adesso, la risposta giusta di Viviana, dottor Ongaro, sarebbe mangia presto, alla sera. Beh, deve aggiustare le altre. Esatto, è comunque un punto d'inizio, no? Poi c'è anche da dire, Nicoletta, che comunque il metabolismo si addormenta o si risveglia soprattutto in funzione di ciò che mangiamo, più che di quanto e quando. Ritorna la nostra visione nutrigenomica, che alla fine i messaggi che gli alimenti ci mandano sono la cosa che conta di più, e in effetti ci sono alcuni approcci alimentari che fanno addormentare il metabolismo più o meno di altri, e questo potrebbe essere il tema del nostro quiz. Dai, il quizettone: qual è il regime che fa addormentare meno il metabolismo? Esatto, okay. Basso contenuto di grassi, basso contenuto di carboidrati o a basso contenuto di proteine, cioè quale di questi regimi alimentari fa addormentare meno i carboidrati, il metabolismo. 800 24 00 24, ho pensato che dalla libreria di Essere Benessere ci priviamo di un libro che ci sta particolarmente a cuore, l'abbiamo letto con passione con Laura Vanossi, si intitola Il nuovo nel piatto, sono 128 ingredienti conosciuti da pochi ma alla portata di tutti, scritto da Giulia Visci, che è una splendida giornalista, Ponte alle Grazie editore. Chissà se troveremo il famoso creme tartaro che ha fatto impazzire i nostri ascoltatori sulle pagine di Mangia con me. 800 24 00 24, andiamo a Napoli, c'è Gennaro, benvenuto. Sì, pronto. Oi là, Gennaro, buongiorno. Allora, io parto da una base che... Gennaro, scusi, sa che devo... Gennaro, facciamo così, la richiamiamo perché non la sentiamo bene. La richiamano dalla regia, grazie Gennaro. Dopo il quizzettone, dottor Ongaro, lei ha fatto il quizzettone, io ho pensato alla parola chiave, la dico? Sì, certo. Io ho pensato a reset, che dice? Tanto più che Viviana... Molto informatica. Vero? Viviana, ti piace? Ho pensato perché dato che lavori in un'azienda informatica, penso che insomma questa parola resettare... Sì, devo dire che è perfetta, mi ci trovo benissimo. Ma, perché, bene, sono contenta perché mi sono lanciata in questa parola chiave, di solito le trova giustamente il dottor Ongaro, ma mi ha stimolato il suo quizzettone. Dottor Ongaro, ma a proposito di resettamento, quanti chili deve perdere la nostra Viviana? Allora, facendo la premessa di prima, che i chili non sono tutto, diciamo che Viviana ha un indice di massa corporea che si aggira attorno ai 32 e deve perdere almeno un 15 chili. Dobbiamo viaggiare a un chiletto alla settimana, insomma, quindi un 15 settimane sono poco più di 3 mesi per arrivare ad un obiettivo che si aggira attorno a questo. Poi ripeto, i chili non sono tutto, quindi è più importante a volte guardarsi allo specchio e capire come sta cambiando il nostro corpo. Dottor Ongaro, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che si ritrovano nella situazione di Viviana, diamo due indicazioni prima dei mercati. Che cosa ha pensato per Viviana? Su che cosa punterà? Ma allora, devo dire che poi qui ci aiuta anche la conoscenza che abbiamo del caso. Viviana dorme anche poco, perché dorme meno di 6 ore a notte, da quello che ci ha detto. Dormire è fondamentale perché riduce lo stress e consente la produzione di una serie di ormoni che permettono di perdere grasso. Quindi dormire sarà una delle cose che Viviana deve sicuramente migliorare. Poi correggeremo i punti che Viviana stessa ha sottolineato, cioè a partire dal fare la colazione, ovviamente tenteremo di riequilibrare i macronutrienti seguendo quello che poi è il risultato, diciamo, del nostro quiz, quindi non lo anticipo, ma sarà una miscela tra proteine, grassi e carboidrati che favorisce ovviamente la riattivazione del metabolismo, inserendo anche qualche pasto in più per dare regolarità al metabolismo ed evitare che arrivi soprattutto ai pasti principali, in particolare alla sera, a mangiare eccessivamente. Poi ovviamente ci sarà Stefano Tirelli che chiaramente lavorerà al fianco, lavorerà al fianco. Gennaro da Napoli, prima dei mercati, l'abbiamo ripescata. 800 24 00 24, voilà, Gennaro. Mi faccia sentire la sua voce. Buongiorno. Allora, buongiorno. Io parto dalla base che corro per mangiare, quindi curo l'alimentazione relativamente, però cerco di regolarmi con una buona colazione, accanto un semplice panino, e la sera ho il primo e il secondo. Se poi, diciamo, c'ho un po' di appetito, vado sulla frutta, però poi la domenica, il sabato e la domenica vado proprio libero è bello, ma d'altra parte ha corso, ha distribuito bene i vari pranzi e le varie cene, dottor Ongaro, mi sembra che... Gennaro. Credo che sia una pratica che fanno molti, non è del tutto sbagliata, cioè cercare di avere un'attività fisica regolare, mangiare discretamente bene durante la settimana e poi concedersi anche un momento di rilassamento in cui si può essere un po' meno ligi. Bravo Gennaro. Bravi, bravi, siamo tanto bravi, bravi. Come siamo bravi, siamo bravi. Siamo tanto bravi a fare quasi tutto con la voce come gli signori. Sì, forse fosse qualche nota non è proprio giusto, giusto. Sì, però io sono certo che così nessuno sa cantare. Siamo come gli uccelli. Senti il trillo, senti il trillo. State un po' a sentire queste note così basse, chi le fa? E poi vado su, vado su, vado su. Ah, bravi, bravi, come siamo bravi, bravi. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare. Bravi, bravi a voi che ci state ascoltando. Bravi ai nostri partecipanti della seconda edizione di Mangia con me, a Viviana che inizia con noi un nuovo viaggio, un nuovo percorso, e soprattutto bravi agli alti e bassi che ci accompagnano tutte le settimane cercando di scegliere nel loro repertorio una canzone che ben rappresenti l'ospite, il nostro partecipante, l'ospite d'onore della nostra puntata. Andrea? Eccoci, Nicola. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Grazie. Abbiamo deciso di dedicare a Viviana questo brano famosissimo di Mina, perché Viviana ci ha raccontato di sé, del suo lavoro, della sua famiglia, della sua alimentazione. Il suo è forse il profilo più lungo e completo che abbiamo incontrato tra i vari partecipanti a Mangia con me. Ci è sembrata una persona molto dinamica, determinata e davvero in gamba, quindi assolutamente in grado, grazie ai consigli dei tuoi esperti, di ribaltare, diciamo così, la sua situazione attuale. E quindi questa è la ragione per cui le dedichiamo Brava di Mina, e vuole essere un vero e proprio augurio, e ne approfittiamo per fare quindi con questo brano un saluto finale a tutti i tuoi ascoltatori, dedicando quindi il pezzo non solo a Viviana ma anche a te, alla redazione e ai tecnici di Radio 24 e a tutti gli 8 concorrenti di questa seconda serie, ai quali diciamo a tutti bravi. Bravi veramente, e grazie a voi per averci coinvolto nella vostra trasmissione. Grazie Nicoletta. Grazie, grazie ad Andrea degli Alti e Bassi, ma noi ci sentiamo presto. Sicuramente. Viviana, hai conquistato gli Alti e Bassi, ti dico solo che sono 5, eh? E che cantano? Mi sono alzata di 2 metri, ascoltando. Ecco, e che di fiato ne hanno, eh? Dottor Ongaro, torniamo a noi. Viviana, nel suo profilo, un profilo molto puntuale, ha raccontato: sono quasi in menopausa. Allora, a proposito di metabolismo, ci sono delle situazioni della vita, nella vita di noi donne, ad esempio, sono l'adolescenza e la menopausa, guarda caso proprio due momenti della vita in cui gli ormoni fanno un po' le bizze, in cui il peso cambia, il metabolismo sembra cambi passo, segno che gli ormoni c'entrano qualcosa. E allora sarebbe opportuno, quando il peso non scende, dare un occhio alla situazione ormonale, oppure è inutile? No, no, è assolutamente utile e necessario. Diciamo che in alcuni momenti della vita, come quelli che citavi tu adesso, in particolare la menopausa, questo diventa così evidente che in genere rientra nelle pratiche mediche correnti di valutare la situazione ormonale, che peraltro nella donna in menopausa può sicuramente avere a che fare anche con il peso corporeo, l'accumulo di grasso, in particolare attorno all'addome. Ci sono delle altre situazioni ormonali che spesso vengono diagnosticate con meno rapidità, semplicemente perché non rientrano nei classici esami che si fanno. Quando c'è una problematica legata alla gestione del peso, anche se diciamo l'alimentazione è fondamentalmente corretta, l'attività fisica è sufficiente, è certamente bene parlarne con un medico, perché possono esserci alla base delle problematiche anche ormonali, per esempio quelle che riguardano la tiroide, che certamente rallentano il metabolismo e rendono la perdita di peso molto difficile. Ci ha raggiunto anche Stefano Polato, l'abbiamo citato più volte nel corso della prima parte della trasmissione. Stefano, ciao! Buongiorno a tutti. Benvenuto. Prima di tutto, raccontaci che cos'è il cremor tartaro, perché a proposito di ingredienti, noi stiamo introducendo anche degli ingredienti che sono in qualche modo spariti. Ricordo che il libro che abbiamo messo proprio a disposizione oggi per il nostro quizzettone contiene la descrizione di 128 ingredienti conosciuti da pochi, ma alla portata di tutti. Il cremor tartaro è sicuramente uno di questi. Sì, Sì, sono parecchie settimane che cerchiamo, che ci alleniamo a dare alternative sane e naturali in cucina. E il cremor tartaro è uno di questi. Diciamo che brevemente è un lievito naturale costituito da un sale acido di potassio che è naturalmente contenuto nell'uva e nel vino. Quindi in abbinamento con il bicarbonato di sodio, questo sale ci permette di far lievitare i nostri dolci. È facile da usare? Sì, facilissimo da usare e la quantità necessaria è esattamente la metà rispetto all'utilizzo del normale lievito di birra. Senti, a proposito di dolci, l'altra puntata noi ti abbiamo sfidato con la torta di nocciole, la versione della mamma di Fabio, contro la tua. Adesso gli amici di Mangia con me sperimenteranno e ci faranno sapere, ma anche oggi, quindi dobbiamo sacrificarci amici perché poi così votiamo, ma anche oggi una nuova sfida, lanciartela a Viviana. Viviana, anche tu hai un dolce bello calorico, bello impegnativo con cui sfidare il nostro Stefano. Ebbene sì, se me ne dà una versione light sarò felicissima, è il tiramisù. Bene. Come accennato la settimana scorsa dal dottor Ongaro, non dobbiamo rinunciare alla tradizione, ma piuttosto dobbiamo cercare di limitare i danni. E come la torta di nocciole di Fabio, il tiramisù fa parte della tradizione italiana. E quindi, Stefano, noi aspettiamo la ricetta di Viviana, perché anche lei scriverà la sua ricetta del tiramisù, in modo che la proviamo. Quella di Viviana e poi proviamo quella di Stefano Polato e facciamo i confronti. Stefano, per la settimana, per la prima settimana, che cosa avete pensato? Quali sono gli ingredienti, i prodotti che in collaborazione con il dottor Ongaro avete pensato per dare un po' una sveglia al metabolismo di Viviana? Sì, mi piace molto la parola chiave che abbiamo deciso di utilizzare, reset. Quindi non solo resettiamo la nostra alimentazione, ma resettiamo in primis il carrello della spesa, quindi per Viviana questa settimana le daremo qualche indicazione anche su cosa mettere dentro la borsa della spesa, in particolar modo come sottolineiamo sempre e come sottolinea sempre il nostro dottor Ongaro, cereali integrali. Viviana è particolarmente golosa di pane, la invitiamo a provare farine integrali che offrono gusti e profumi diversi dai soliti che proviamo e in aggiunta passando per il banco del pesce scegliamo pesce azzurro e ricordiamoci sempre che anche per il pesce vige il principio della stagionalità. Dottor Quindi Ongaro, facciamoci consigliare dal pescivendolo il prodotto di stagione che costa meno e ci permette di utilizzare un prodotto sicuramente più veloce da reperire, che ha fatto meno chilometri per arrivare al banco. Dottor Ongaro, perché l'integrale sveglia il metabolismo? Mi chiede Carla. L'integrale sveglia il metabolismo semplicemente perché incide meno sul rilascio di insulina, aumenta meno la glicemia, per questo il pancreas sarà costretto a produrre una quantità di insulina che è ovviamente minore rispetto ai cereali raffinati e l'insulina è un ormone che certamente favorisce l'accumulo di grasso. Noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ringraziamo Stefano Polato che cucinerà menù accattivanti, stimolanti, a chilometro zero, naturali, per dare una sveglia al metabolismo di Viviana. Naturalmente potete andarli a leggere anche voi e sperimentarli. Naturalmente anche Stefano sposa un po' la nostra filosofia che condividiamo con il professor Segre che è già in linea con noi. Professor Segre, voilà, eccolo qua. Buongiorno. Evitate gli sprechi, ha detto Stefano Polato, e quindi assolutamente in linea con il professor Segre, con le pillole che noi ogni giovedì lanciamo per far dimagrire il nostro bidone della spesa. E siamo tornati insieme. A proposito di spreco, evitiamo di buttare le cose. Ad esempio, Viviana ama molto il pane. Allora, che cosa abbiamo pensato? Che questo alimento, questo prodotto si può utilizzare anche per preparare piatti ricchi di gusto e poco costosi, come insegna un po' la tradizione. E allora abbiamo pensato di mettere sulle nostre pagine di Facebook una ricetta che ho recuperato da un libro che vi voglio segnalare, si intitola Il menù che fanno bene. È un libro che vi segnalo perché i proventi d'autore sono devoluti ad Actionaid, che è un'organizzazione impegnata in oltre 50 paesi nella lotta alla fame, che con la campagna Operazione Fame si propone di sfamare più di 80 milioni di persone. E come vuole farlo? Proprio riducendo gli sprechi, quindi insegnando con delle ricette che sono suggerite da volti noti, anche food blogger, suggerire un po' dei trucchetti, insegnare a consumare i prodotti di stagione, evitare gli sprechi. Una parola che piace naturalmente al professor Segre, a cui lascio la parola per la pillola di oggi. Professore. Beh sì, mi piace anche a me molto, perché ridurre gli sprechi passa anche a far dimagrire un po' non solo il bidone della spazzatura, ma gli acquisti, la nostra spesa. È vero che siamo in crisi, però stiamo attenti a quello che consumiamo, perché per esempio la carne, ridurre un po' i consumi, prenderla di stagione, che venga da vicino, è molto importante non solo per la nostra dieta, per stare meglio, ma anche per la sostenibilità, cioè per fare durare un po' più a lungo il nostro pianeta. Consumare carne significa consumare animali che si nutrono di foraggi, molta acqua, molta energia, e poi producono quel gas che poi va a determinare il riscaldamento climatico. Allora, quando pensiamo alla nostra dieta, stiamo attenti, questo vale per noi in Europa ma anche per il mondo, e si possono cucinare gli scarti anche di carne, per non buttarla via, perché la possiamo certamente consumare. Quando si acquista per esempio un pezzo intero di carne, il risparmio è certamente assicurato, ma si trovano dei ritagli degli scarti. Per esempio, si possono fare degli ottimi spezzatini con le mele, e questo ci comporta anche un po' di consumo. A proposito di prodotti di stagione, con la mela, che tra l'altro il sapore è assolutamente squisito. E anche le mele, purtroppo un po' danneggiate di questo periodo, poi si tendono a gettare via. Invece mettere assieme lo scarto di carne con lo scarto di mela, o la mela non proprio perfetta, un po' brutta, è ottimo per la nostra dieta, e stiamo meglio, mangiamo bene, e soprattutto il nostro obiettivo finale, far dimagrire il bidone della spazzatura, pian pianino si sta realizzando. Grazie al professor Segre dell'Università di Bologna, presidente Last Minute Market e autore di Cucinare senza sprechi, Ponte alle Grazie editore. Grazie prof. Ed è tempo di arrivare dulcis in fundo al professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Sì, buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti. Il Viviana sperava che lei non venisse, forse, perché ha detto forse mi va bene, mi fanno mangiare qualche cosa di buono, mi spostano un po' l'orario, magari il contenuto della prima colazione, e non mi muovo. Invece eccolo qua il nostro castigatore, che lavora ai fianchi dei nostri partecipanti. Sì, in effetti direi che purtroppo per Viviana l'attività fisica che lei compie settimanalmente, quindi due volte alla settimana all'acqua gym, probabilmente non è sufficiente per l'obiettivo che lei vuole raggiungere. E a questo punto io suggerirò, e se lo troveremo sul sito di Mangia con me, la pratica di alcuni esercizi atti a tonificare gli addominali, i glutei, che lei potrà fare comunque tranquillamente a casa. Non è necessario andare in una palestra, avrà un suo spazio che poi indicherò come adibire all'interno della propria abitazione. E in più ci sarebbero anche da suggerire a Viviana, credo, dei punti cosiddetti magici da te, che possano aiutarla a respirare maggiormente. Questo perché l'attività professionale di Viviana è un'attività che necessita sempre di decisionismo, di prendere responsabilità, di assumersi responsabilità e di guardare avanti. Quindi questo comporta generalmente uno stato di ansia di base. Allora l'attività motoria deve essere associata anche ad un'attività di rilassamento muscolare, perché il muscolo eccessivamente contratto può andare incontro a problematiche. Come rilassare i muscoli? Con la respirazione, e con dei punti che troveremo sulla mano, in particolare sul polso e poi sul primo dito, sul pollice, e che poi vedremo anch'essi nelle fotografie che metterò sul sito. Questi Quindi per punti... Viviana molto lavoro in più da farsi a casa soprattutto. Magari può farlo anche con suo figlio? Sì, perfetto, perché il punto cuore, trovare il tempo. È un punto che allenta e che rilassa moltissimo il diaframma, quindi ci aiuta a respirare meglio, a digerire meglio, ad assimilare meglio quindi i principi nutritivi. Grazie professor Tirelli. Allora, grazie a voi, cercheremo, buona energia a tutti. Cercheremo i punti sulla pagina di Mangia con me. Viviana, devo dire che no, è andata abbastanza bene. Ma sì, devo dire che cercherò di organizzarmi per fare anche questi movimenti a casa, magari appunto una buona idea è quella di coinvolgere mio figlio, sicuramente mi controllerà, lui è sicuro. E poi userò questi punti magici, sono molto curiosa di vedere come possono funzionare su di me, perché io ho una caratteristica ansiosa, quindi mi potrebbero aiutare veramente. Bene, sono contenta, anch'io andrò alla ricerca dei punti magici, devo dire che li sto provando tutti, perché io cerco di provare sempre i consigli che gli esperti danno a voi, li proviamo io e Laura Vanossi. Intanto abbiamo Rosalba che ci chiama da Torino. Buongiorno Rosalba, benvenuta. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione che seguo tutte le mattine quando posso. Grazie Rosalba. Allora, io ho pensato che la risposta giusta possa essere i carboidrati. Quindi il regime che fa addormentare meno il metabolismo, secondo Rosalba di Torino, è un regime che ha un basso contenuto di carboidrati. Esatto. Giusto. Vediamo se il dottor Ungaro è d'accordo. Dottore? Sì, sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, Nicoletta, questo è stato confermato da alcuni studi recenti e in parte la ragione è proprio legata a quel meccanismo dell'insulina che menzionavamo prima. Allora, Rosalba riceve a casa il nuovo nel piatto, vedrà Rosalba che le piacerà molto, scoprirà tanti ingredienti. Io sono appassionata di questo libro. Grazie a Viviana. Mi raccomando, Viviana, siamo con te. Ci proverò con tutte le mie forze. Noi facciamo tutto il tifo per te e intanto andiamo a leggere che cosa ti ha preparato di buono Stefano Polato. Grazie a Viviana, grazie al dottor Ungaro, come sempre grazie a voi che ci avete seguito, a Matteo Comes in regia alla parte tecnica, alla preziosissima Laura Vanossi in redazione, quante esse. Noi ci sentiamo domani.